Benvenuti al quinto episodio di Micio Segone Triforce. Siamo sempre noi, siamo sempre qui. Perché parli a rallentatore? Perché sto pensando a cosa dirò dopo quello che sta dicendo. Oggi non si può dire perché noi ovviamente non andiamo live, non possiamo dire quando registriamo perché altrimenti verremo sommersi a telefonate. Sì. Ecco, cioè, Vario Punk, ciao a tutti. Scarde Pumpkin. Appena scampato da un liquame d'olio. Sì, vabbè. Rixga No, 4.0. ciao. No cosa. Detto anche Etherick. E gira 93. Sono tornato. È tornato. Come Duke Nukem, sono tornato. È perché a livello cronologico è difficile capire cosa abbiamo registrato e quando abbiamo registrato, ma gira è mancato e mancherà in futuro, perché abbiamo registrato cose che verranno in futuro. Sono viaggio nel tempo io. Sì, c'è Io un mi po' sono lì, un po' là. perso, voi? Vabbè, scusa, all'intervista del Game Maker non c'ero io. Esatto, ma E quella è uscita. tra quella e questo abbiamo registrato un'altra cosa che deve ancora uscire. Ah, quindi una sorpresa, bene. E quindi te ci sei al neon. Ah, ok. Ok, passiamo subito ai fatti, non perdiamo tempo. L'angolo delle rettifiche, abbiamo detto cavolate le volte scorse. Sì, Sì! anche in futuro. Ma sappiamo di averle dette? Cioè, no, No! sappiamo come correggerle? No. Perfetto. Quindi possiamo passare oltre, siamo stati bravissimi oggi. Segnaliamo un po' di mail per chi ci vuole contattare. Allora, Gira ha messo su un business di riparazione computer. Se volete spedire in allegato a mail Un computer intero. il vostro computer da riparare o vari hardware. La mail è giraripara@windowscorporationltd.org. Mamma mia. Mamma mia che meme, cioè. Wait, quando lavori per Windows Sì, ma direttamente. la sai solo tu, lui non la sa. Adesso sì. Vabbè. Mi Adesso la so. raccomando, computer allegati fino al peso di 20 mega, se no non li prendo. Poi. Ci sono i filtri. Bisogna togliere un po' di roba. Sì. Invece la nostra mail per cosa? Per mandarci mail, insulti e roba Ma varia. io pensavo che fosse Quella andata così. reale è pancomando77@yahoo.it. Le K di pancomando sono due. E in più c'è quella per mandarci dei soldi con motivi o senza motivo. Anche se volete mandarci senza motivo, che non me la ricordo più. Ah, Mi sì. metto la mia. Dateci dei soldi per parlare di voi, chiocciola. GameStop. No, miciosegonetriforce.org. Andiamo a registrare questo bene adesso. Che ovviamente è appoggiata su Aruba. Ok, possiamo iniziare a parlare quasi seriamente adesso. Sì, direi che è il caso. Quindi, purtroppo prendo la parola io, cercando di alzare il livello medio della trasmissione da brodo primordiale a forma di vita del Cretaceo. Scusa, te stai parlando da mezz'ora, non è che prendi la parola. Quindi Sì, rimaniamo a brodo infatti. primordiale. No, e voi avevate tipo il 5% di possibilità di intervenire, adesso scende al 2%. Questo lo sapevo. Gira no, Gira può parlare quanto vuole. Ah, ok. No, è perché oggi, al contrario delle altre volte, Riccardo, anzi Rixca IV, è presente nella sede principale a trasmissione, quindi siamo in tre con un microfono. Mentre Gira c'ha tutto il suo apparato hi-fi e microfono personali. Anche se non conferma, è così. Chissà se consente. Eccolo, l'ho trovato, il gioco di cui voglio parlare. Parliamo di GameCube, ovvero una console che in Italia ha avuto Nintendo. sì, ha avuto quello meno di quello che meritava. Anche perché ha offerto Comprato dei. GameStop. No, Wii, di gioco su Wii. Comprato GameStop. Sì, no, no, no, no, non è vero. Ha offerto titoli in esclusiva che diciamo facevano molta gola. E si comprano GameStop. Per fare due nomi, Resident Evil 0, che è uno dei Resident Evil più belli, anche se molti non lo vogliono ammettere, e Eternal Darkness Sanity Requiem, ovvero il gioco di cui andiamo a parlare. Che Moby Games lo mette sotto action, ma io direi più che è un survival horror, ma a voi la scelta. Allora, Eternal Darkness. Come stranamente la maggior parte dei giochi di cui parlo io sono giochi che dovevano essere sviluppati per la console precedente a quella a cui sono usciti, casualmente. Anche Eternal Darkness, infatti, era previsto per il Nintendo 64. E uscì una demo per Nintendo 64. Dato che Nintendo 64 aveva le cartucce, non ho la più pallida idea di come potesse essere una demo per Nintendo 64. Ma come potesse essere distribuita la demo? Ma credo fosse giocabile alle fiere, semplicemente. Ci do un occhio. E questa particolarità si nota soprattutto nella protagonista, che è un po' più poligonale del resto dei personaggi. Sì, la demo si nota, qui dicono che non è stata rilasciata, ma infatti è stata mostrata via video e in alcune fiere era giocabile. Allora, Eternal Darkness, torniamo qua a vedere le date che io non so. Non sai niente. No, non so niente. Ecco, Eternal Darkness è uno di quei titoli liberamente ispirati alla... alla sfera... di Mario Galaxy. No, a Lovecraft. Non mi viene all'universo lovecraftiano. Ecco qua, liberamente ispirati, perché molti giochi non hanno i diritti alla parentela di Lovecraft. Sì, in questo momento non mi viene in mente, ce ne sono qualcuno che ha Cthulhu nel nome, quindi hanno pagato, non mi vengono in mente. Call of Cthulhu. Ecco, esatto. Cthulhu 2 e 3. Cthulhu Saturday Fever. The Night Fever. Call of Cthulhu, c'è il gioco? Sì, c'è Shadow of the Comet, che è quello per gioco punto e clicca. Sì, le avventure grafiche, sì, giusto. Poi c'è Dark qualcosa, non mi ricordo. Che è Prisoner of Ice. Esatto, che è un'altra avventura grafica. E poi il più Dark recente Seed, che è... non mi viene il nome. Dark Seed. No... anche quello è ispirato, però c'è quello non ha pagato. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ok. Poi è una specie di sparatutto. Citiamo altri non famosi non famosi che non hanno pagato i diritti. La saga di Alone in the Dark. Anche vero. I primi almeno, più che altro. Sì. Poi quello Clive Barker's Jericho di Clive Barker ricorda molto Cthulhu e tanti altri. Adesso ci vorrebbe un filmato velocissimo, che passa velocissimo, con tutte le copertine veloci che vanno su. Così veloci che riusciamo a malapena a vederle. Vabbè. Adesso parliamo del gioco quasi seriamente. La trama la posso anche dire a memoria, solo devo sapere il nome della protagonista perché non me lo ricordo. Solo che qui hanno avuto il buon senso di non scriverlo, purtroppo. Vabbè. Allora, cosa troviamo davanti con questo gioco? Un ibrido tra un action, come detto prima, un action che può ricordare Prince of Persia, più che altro, quello di ultima generazione, quello da PS2, periodo PS2, misto a un survival horror. Il gioco inizia, ha una storia raccontata tramite l'intreccio di altre storie che si susseguono nell'evoluzione della razza umana. Perché, dai, che trovo il nome della protagonista da qualche parte. Ma il suo personaggio... Alex, trovata, Alex, ecco. Noi principalmente interpretiamo Alex, che è questa ragazza che va nella villa dello zio che è morto per cause più che misteriose, per cause macabre, visto che è stato squartato. Beh. E indagando nella villa per trovare il motivo e il colpevole dell'uccisione di suo zio, trova un misterioso libro, tra parentesi Necronomicon. giustamente. Tanto per dire. In cui inizia a leggere, la storia dell'intreccio di tre religioni di tre divinità antiche. Il primo tratto di storia parla del centurione Pius Augustus, rispettabile centurione romano, qui ci dicono anche. E la parte con Pius più che altro un tutorial su come giocare, che però serve già a mettere le basi del gioco, perché appunto le divinità di base sono tre, ma all'inizio del gioco, nelle prime due storie, abbiamo la possibilità di scegliere la divinità cattiva e la divinità buona, possiamo dire, e poi ci sarà la terza neutrale che serve per la risoluzione di qualche enigma, perché le tre divinità sono a schema triangolare, una batte l'altra e viceversa e così via. Quindi scegliendo la cattiva e la buona non nel giusto ordine dello schema, per battere la cattiva dovremmo usare la terza divinità neutrale e così via. Ma dopo sulla parte magica ci passiamo dopo. Fatto il pezzo di Pius, inizia la parte un pochino più volendo punta e clicca, ma proprio esagerando. Diciamo più la parte enigma survival horror, quando nel survival horror c'è da risolvere qualche piccolo enigma. Perché ogni volta che Alex finisce di leggere un capitolo di uno dei personaggi che ha avuto a che fare con queste tre divinità, deve trovare il capitolo successivo nella villa. All'inizio basta risolvere dei puzzle semplicemente, poi quando finalmente si avrà l'uso della magia, i puzzle saranno risolvibili attraverso gli incantesimi. E in più nella casa, più si va avanti nella storia, più mostri, più si ha possibilità di incontrare i mostri. E così via, la storia continua attraverso sezioni in cui siamo un personaggio antico che parte appunto dall'impero romano, fino ad arrivare ai giorni nostri, e sezioni in cui siamo Alex all'incerca del capitolo successivo. Allora, a livello di gameplay, le location sono molto limitate. Spesso bisogna semplicemente andare avanti nelle stanze. A parte la villa, che è come le ville di Resident Evil, dove ci sono porte chiuse che più avanti si potranno aprire, i dungeon che dovranno affrontare i personaggi storici che personiamo sono solitamente rettilinei, cioè stanza, batti i mostri, apri porta, vai in un'altra stanza. Verso la fine del gioco qualcuno invece sarà più simile, avrà degli enigmi necessari per andare avanti, quando finalmente la magia sarà propedeutica alla risoluzione degli enigmi, non solo al combattimento. Le magie vengono ottenute attraverso le sezioni con i personaggi storici, di solito ognuno ne ottiene una, bene o male, e sono appunto magie d'attacco, di difesa, curative e alcune che evocano creature, resuscitano i morti e così via. Prima di avere queste magie, il combattimento sarà solo all'arma bianca o all'arma da fuoco, dipende dal personaggio, perché le armi da fuoco con i primi personaggi nemmeno esistevano, per dire. Ci sarà le scimidarre o il gladio. E le sezioni Prince of Persia ci sono soprattutto perché i primi personaggi hanno la cattiva idea di entrare in dungeon con trappole mortali. Le maledette trappole mortali. Quindi devono correre sui muri? No, non corrono sui muri, però se salgono sulla casella sbagliata vengono spiaccicati. Non mi viene la parola. L'ispirazione più forte a Lovecraft di questo gioco si vede soprattutto dalla sanità mentale, cosa che è presente in praticamente tutto ciò che riguarda Lovecraft, anche al gioco di ruolo di Call of Cthulhu, per esempio. Anche nell'FPS che ho detto prima. Esatto. Cioè, Lovecraft sanità mentale. Uguale sanità mentale. Sì. Anche perché, leggendo i racconti di Lovecraft, le creature che vengono dall'altra dimensione, a parte di solito si mostrano più che altro, non tendono a uccidere gli esseri umani, solo la loro vista ti sconvolge tanto a portarti alla pazzia. Quindi. Esatto, sì. Qui invece ti ammazzano anche, però i loro colpi ti fanno scendere anche la sanità mentale, oppure i loro colpi, certe visioni terrificanti, le evocazioni, anche quando tu evochi un mostro perdi sanità mentale, perché comunque non è bello da vedere. E qui viene la cosa più particolare del gioco, che è molto molto bella. Praticamente quando tu hai la sanità mentale bassa, sei in panico, quando entri in una stanza può succedere qualsiasi cosa. Cioè, ad esempio, puoi sprofondare nelle texture. Tu dici, sei lì che cammini e vai sempre più in basso nel pavimento. E dici, questo è un errore del gioco. Invece no, arrivi sempre più in basso fino a morire. Ah. E poi ti viene detto, e poi quando succedono queste cose, tu non muori realmente in realtà. Praticamente il personaggio urla, this can be happening, cose così. Lo schermo si sparaflescia e lui si ritrova dove era prima e dice, oddio cosa ho visto, cose così. Questo diciamo era un esempio, se no c'è una stanza in cui il soffitto viene giù e ti schiaccia. Altre, una stanza in cui entri, sei paralizzato, no, poi in realtà non è una stanza, sono effetti casuali che possono capitare in qualsiasi stanza. Errore del GameCube addirittura. Cioè, una delle cose della pazzia, ti viene lo schermo nero con scritto errore lettura disco. Tu no. Sei lì che stai andando per resettare il GameCube e poi il personaggio si riprende e dice oddio cosa ho visto, e lì addirittura lì proprio cosa ho visto. Ha scoperto di essere un videogioco. Esatto. Vabbè, non voglio spoilerare tutti gli effetti, però ce ne sono veramente tantissimi e molto belli. Infatti è molto più divertente andare in giro pazzi perché almeno ti becchi queste cose fantastiche. Alcune però ti fanno ammazzare dei mostri, perché alcune ti bloccano e quindi tu non puoi fare niente, però non ti attaccano. Altre invece ti fanno vedere le cose sbagliate e in realtà i mostri ti stanno menando mentre tu vedi quelle cose. E quindi questo aspetto a sanità mentale è molto molto bello. Che anche in Hunting Ground c'è una cosa simile, però lì è più il panico che sanità mentale. E bene, torniamo alla magia, va. La magia richiede ogni incantesimo che tu esegui un tot di rune in modo nell'ordine corretto. Più l'incantesimo è più complicato, più rune devi dire. Questa cosa ricorda molto i trucchi di GTA, per chi ha giocato a GTA su console. Perché quando giochi per molto tempo a GTA con i trucchi, dopo li impari a memoria e muovi le dita velocissimo, no? Sì. Ecco, gli incantesimi Eternal Darkness funzionano così. Quando li hai usati un po' di volte, ti tocca premere tutti i pulsanti velocemente in modo corretto, perché se tu ci metti troppo a curarti con l'incantesimo, intanto il boss ti spiaccica per terra. Che è quello dei trucchi di GTA? Sapevo quasi tutti a memoria. Chi è che gioca GTA senza i trucchi? Chi gioca su PC forse, dai. No, PC è quello più facile. Io ci ho giocato anche su PC, ho usato anche lì i trucchi, la cosa più divertente. Basta prendere tassino alla striga di cose. Sì, no, però il mio vicino di casa, Andrea, gioca senza trucchi. Prima finisce il gioco senza trucchi, poi si scatena. Ma è giusto così. Sì, quando GTA diventa uno gioco sandbox dove che serve solo a sfogare l'ira, ti metti il bazooka e vai in giro a uccidere la gente. Ecco, il più io ho giocato GTA all'inizio giocavo senza trucchi. Sì, dipende come lo usare. Se lo usare come antistress, quei trucchi è no, un antistress. No, la storia, ti devo capire. E in Eternal Darkness tu hai mai evocato il Rhino? No. Però l'ultimo incantesimo di evocazione evoca un bestione che mai. È un Kevin. Sì. Flarg. Allora, finiamo di parlare le ultime cose. La storia è molto molto bella, è scritta bene. L'aspetto più deludente probabilmente è il boss finale, vabbè, ma sorvoliamo su ciò. E il gioco lascia aperto un seguito, e anche la Nintendo lascia aperto un seguito, visto che hanno pagato i diritti del brand, però non hanno mai fatto un 2. Due anni fa hanno pagato i diritti, quindi c'è ancora tempo per fare Eternal Darkness 2. No, per Super Nintendo. Potremmo utilizzare come sito di lampada. Magari per Wii U, quella che deve uscire. Esatto, per poter lanciare la console. Non so se mi sentivi da distanza. No, ti sentivo un po' lontano. Divinità... Sono 4 in totale, giusto? Però quelle che puoi avere, cioè quelle dell'albero degli incantesimi sono 3. La quarta non è usabile da protagonista. È solo ai fini della storia. Qui ci sono i personaggi, niente da dire. Ah, sì, sequel, vediamo cosa dicono del sequel. Presidente della Silicon Knight, designer, risponde assolutamente sì. Riguardo a un possibile sequel, quanti anni fa l'ha detto? Vabbè. Comunque, Eternal Darkness è del 2002 e ancora sequel se non se ne vedono, ma come mai dire mai. Esatto. Magari tra tipo 20 anni dicono, abbiamo sviluppato in questi 20 anni un gioco. Sinceramente, questo è uno di quei titoli che ti fanno comprare il GameCube, che vale la pena comprare un GameCube o adesso una Wii solo per questo, non solo per questo. Comprare una Wii per un gioco. Cioè, ad esempio, l'Xbox ai tempi era comprata per Halo più che altro. Beh, sì. Halo faceva comprare la console. Eternal Darkness e Resident Evil 0 sono due giochi che fanno comprare il GameCube. E a livello di suoni, la musica è molto molto buona e atmosferica, come in tutti i giochi horror, e anche ha una buona varietà. E i suoni sono molto belli, anche il doppiaggio dei personaggi è fatto molto bene. E i suoni, soprattutto quelli delle rune, perché ogni volta che evocate una runa per un incantesimo c'è la litania. Quella è fatta è registrata veramente benissimo, la litania. E niente, qua leggendo un po' di recensioni in giro, tutti dicono che è un grandissimo gioco e sono d'accordo, soprattutto perché soprattutto perché il fattore di rimanere più legati possibile a Lovecraft dà sicuramente più possibilità di fare horror più che action. Cioè Resident Evil è andato a sfociare nell'action, esatto, ma piano piano, cioè già dal 3 c'era più action che altro. Sì. Nel 4 non ne parliamo, il 5 è solo uno sparatutto alla fine. E invece Eternal Darkness è un survival horror, dove nella parte action è veramente veramente bassa. E come lo stesso Hunting Ground, per dirne un altro, che prima o poi ne parlerò. E basta, non mi viene in mente nient'altro su Eternal Darkness. Appunto, è un gioco da giocare. Se vi piace l'horror, è uno dei migliori giochi horror del periodo PS2 GameCube, di quella generazione, dai. E Eternal Darkness merita sicuramente 4 banane. Per tutte le programmi in corso. Perché 4? Perché a livello grafico, io che la grafica di solito me ne frega niente, però a livello grafico c'è qualche stonatura. Ci sono texture non molto curate, c'è qualche poligono un po' troppo spinoso. Alcune cose derivano dal fatto che inizialmente era progettato per 64, che il 64 a livello di spinosità dei poligoni è uno dei migliori. Secondo me nel 64 non ci sono le sfere. No, è tutto a cubi. Altro era che Minecraft. Il tetraedo era la cosa più sferica. In quel periodo le persone erano fatte così, quindi non insultate i 64. Minecraft sembra un gioco 64 a livello di poligonosità. Nuovo termine, vallo a registrare. Trademark. Vallo a registrare. C'è il portafoglio lì, prendi i soldi di Claudio e va a registrare poligonosità. Vai. Prima che Bill Gates ce lo freghi. Quello è portafoglio sbagliato. No, è vero che Bill Gates ce lo frega perché fa l'interfaccia di Windows 8. La chiama poligono. Com'è che l'hai detto? Poligonosità. Poligonosità. No, perché l'altro giorno te dicevi che rifiutano il termine loro. Metro, perché loro hanno già registrato poligonosità. Eh sì, allora la vogliono chiamare poligonosità. Maledetti americani. vabbè. Smetti di fugare il portafoglio degli altri. Allora, cavoli suoi. Deponia lo ruberemo da uno scatolone davanti a un negozio, non lo so. E ok, quindi Eternal Darkness Sanity Reckoning è un gioco da mettere nella lista da giocare assolutamente per chi ama l'horror. Purtroppo è solo per GameCube, però il Dolphin è un ottimo emulatore. Beh, anche la Wii però, cioè, anche la Wii è un ottimo emulatore. Vabbè, dai. Che emulatore, diciamo che la Wii è un GameCube alla fine. È un super GameCube. Esatto. Perché riesce a far andare anche i giochi delle altre console. Della Wii. Wii. Vabbè, se il GameCube lo facevi anche di un altro colore, lo chiamavi GameCube 2, faceva anche andare i giochi del GameCube 2, sai, il discorso è quello. Ah, ma la Nintendo non è nuova a ste cose? No, assolutamente no. DS, considerando DS, che DS Lite, DS ogni, ogni tre mesi escono 12 modelli DS, direi... Di no. Sì, boh, vabbè. Finito. Direi di sì. Sì, sì. Ok, chiudiamo qua perché altrimenti parlo solo io. Eternal Darkness lo lasciamo qui. Mettetelo nella lista da giocare assolutamente. Tanto è Abaddonware sicuramente. È Abaddonware, dai. Sono 10 anni che non lo ristampo. È Abaddonware. È Abaddon, sì. Anche se è Abaddonware, lo passiamo dietro a Abaddonware. Basta avere la magia, come dire. Basta sapere le rune nell'ordine giusto e il gioco comparirà nella vostra Wii. No, basta saper scrivere le cose giuste su Google. Che sono Ak, Ek, Ik. Citazione Monkey Island 4, LucasArts trademarks. No, aspetta, mi dicono dalla regia che non è più della LucasArts. Appartiene alla Apple, scusate. Ah, sì, sì. Lo stai dicendo qua. Basta, io passo la parola perché qua c'è il presidente esecutivo mi chiama, chi tocca? Non è il presidente esecutivo, mi sa. Vado io? Sì, vado io. Il presidente? Vai chi è tu. Che va? Dai, chi vuole? Vado io, allora, considerando che io l'altra volta sono entrato per primo, non posso entrare neanche per secondo. E allora vado io, che è un po' che non arrivo per secondo. Benissimo. Io rubo il posto al... Ma che cosa sei tu? Quello che parla sì. Ah, ok, di cosa parliamo oggi, Zir? Oggi parliamo di To The Moon. Beh, che è un... una un versione gioco dei di... Pokémon. No, è l'ultimo gioco di Buzz Lightyear. Allora, è un'avventura punta e clicca che viene molto confusa per un RPG. Infatti l'unico sito che lo cataloga come avventura è Moby Games, perché tutti gli altri è sotto RPG. Chissà perché questo, perché è fatto interamente con RPG Maker XP, abbiamo visto prima che è RPG Maker XP, per cui... Versione craccata però, non è comprato ufficialmente. Lo so. Questo è perché tu pensi, tu agisci così. Per cui chi... Ma è vero, io sono una persona onesta. Sta zitto, fallo andare avanti. Chi non conosce RPG Maker, come abbiamo detto anche prima di registrare... Fa giochi stile RPG, è un engine per creare giochi stile RPG, stile Pokémon, come dice molta gente. Qualcuno si offenderà per questo. E qualcuno si offenderà anche, vabbè. Quindi, non è, diciamo subito che non è un RPG, non ci sono battaglie con qualcosa, non c'è sistema di level up, non ci sono statistiche, non c'è niente. Praticamente l'unica cosa che assomiglia ad un RPG è la posizione della telecamera, e basta. Graficamente è abbastanza retro, ovviamente fatto apposta. Poi questo è uno di quei giochi che appena parli della storia finisci nello spoiler. Perché è talmente facile dire la storia che... Cioè è un gioco che si basa totalmente sui colpi di scena ed è l'unica cosa che posso dire. Diciamo che proprio velocissimamente è la storia di due scienziati che si chiamano... Dottor Eva Roslin e Neil Watts, vabbè, dedicato a Neil Armstrong. Sì, che praticamente il loro lavoro è hanno questa tecnologia che permette di alterare i ricordi delle persone. Quindi praticamente loro... Quanto hai fatto quei dadi? Eh? Quanto hai fatto quei dadi? No, in realtà sono batterie, mi sono... Quindi sono diplomazie. Quanto hai in carisma? Dai, vai avanti. E praticamente loro hanno questa tecnologia che gli permette di alterare i ricordi delle persone. Il loro lavoro è quello di andare dalle persone in fin di vita, praticamente, che magari gli mancano, diciamo, 2-3 giorni di vita, e esaudire i loro desideri. Ad esempio, se uno voleva diventare un, non lo so... sparatemi un lavoro carino, non so. La propaganda. Responsabile servizio assistenza Apple. Responsabile servizio assistenza Apple. Loro entrano, riescono ad entrare nelle memorie della persona e fargli credere che ha lavorato al servizio di assistenza Apple. Oh, un sogno realizzato. Esatto, esatto. Cosa succede? Che vabbè, questo è il loro lavoro. Succede che ogni tanto capitano i casi particolari. E quindi questo vecchio signore che si chiama Johnny, che è praticamente in coma, ha chiesto, prima di entrare in coma ovviamente, che ovviamente che questi due scienziati venissero da lui per esaudire il suo sogno di andare sulla luna, da qui il titolo del gioco, To the Moon. Quindi lo spediscono con un letto, con un razzo sulla luna. Chiaramente nei ricordi questo. E cosa succede? Che loro chiaramente arrivano, entrano nella sua memoria e iniziano a scavare sempre più a fondo nei suoi ricordi. Chiaramente mi devo fermare qui perché più avanti si capisce bene la storia del personaggio, come mai vuole andare sulla luna. Praticamente è strutturato in modo che noi continuiamo ad andare indietro nel tempo, praticamente, nei ricordi. Per cui viviamo tutta l'infanzia del nonno, praticamente, di questo vecchio signore. Viviamo tutta la sua infanzia e pian piano passiamo per le tappe fondamentali che gli hanno fatto compiere certe scelte. E dobbiamo influenzarlo in modo che lui decida nei suoi ricordi di andare sulla luna. Stavi dicendo? Su Moby Games c'è una scena di battaglia. Sì, ecco, quella lì è una scena finta, che posso dirla perché non rientra nello spoiler. Praticamente okay. C'è un punto, è quella lì che stai guardando dove c'è scritto Squirrel. Sì. Allora, quello è praticamente uno scherzo, perché ci sono... Side jokes. Esatto, in questa villa dove noi andiamo ci sono due ragazzini, due bambini, no? Che dicono a questa dottoressa, che è quella che si vede in primo piano nella battaglia, che è afroamericana tra l'altro. Esatto, gli dicono: noi giochiamo sempre ai giochi di ruolo, tu non ci sai giocare. Allora a un certo punto noi troviamo uno scoiattolo e allora si apre di botte. Questa scena che è ridicola, nel senso che tra gli attacchi c'è scritto Armageddon Fist, cioè pugno, sì, sì. Cioè è finta. È un inside joke, hanno usato un enzyme per fare RPG e ci ridono sopra, dai. Esatto. Allora, il gioco, la trama è molto seria, il gioco è veramente molto serio, però non è sempre serio, nel senso, alcune volte ci sono le battute, come appunto questa scenetta della finta battaglia. E soprattutto i due personaggi, perché noi controlleremo due personaggi a seconda del... cioè non lo scegliamo noi, è il gioco che decide chi farci controllare. Non hanno abilità particolari, semplicemente ci fa giocare un po' con la dottoressa e un po' con il dottore. Hanno due caratteri completamente diversi, nel senso che la dottoressa è una persona leggermente più umana. Nel senso, ha un cuore almeno. Invece il dottore è cinico da morire, cioè è una cosa da morire appunto, cioè da una cosa... È uno scienziato dopo tutto, eh? Sì, infatti, è uno scienziato, è molto, molto cinico. Il gioco è strutturato ovviamente, come ho detto prima, a ricordi. Noi per sbloccare i vari ricordi, quindi dobbiamo trovare nella mappa, nel ricordo in cui verremo spediti. Non ti sento più. Mi senti? No. Mi senti? No. Scendi dalla bicicletta. No, non sento niente. Adesso? Sì, adesso sì. Ti ho perso da quando dicevi che entri nel ricordo. Quando entri nel ricordo, dicevo. Devi trovare, bisogna trovare dentro questo ricordo degli oggetti che fungano da collegamento per andare sempre più indietro. Mm-hmm. Una volta collezionati questi oggetti, si sblocca il link chiave, no? Il ricordo chiave, e bisogna risolvere un puzzle che si trova, cioè negli screenshot si può vedere. Sì. Praticamente è un puzzle assolutamente, diciamo, stupido, nel senso che è semplicissimo. Elementare, dai. Bisogna solo muovere delle tessere. E niente, una volta sbloccato il ricordo, si può andare avanti, anzi andare indietro, sempre più indietro, e continuare a seguire la storia. Diciamo che non è un punta e clicca, però è come una visual novel, cioè è una storia praticamente. Mm-hmm. Leggere tanto e capire, non ci sono enigmi, non ci sono puzzle particolari, non bisogna raccogliere oggetti, insomma è una storia da leggere e seguire. Peraltro è disponibile, il gioco in inglese non ha voce, cioè è tutto scritto. Bisogna si può scaricare la traduzione da The Black Hole Reloaded, il sito, sì. La traduzione in italiano, che purtroppo ha un po' di difettucci di grammatica in alcuni punti. Per scaricare da Black Hole bisogna registrarsi e presentarsi, mi sembra, è il minimo da fare, poi dopo puoi scaricare tutte le traduzioni che vuoi. Io mi ero registrato senza presentarmi. E scarico sempre le traduzioni. Magari si è cambiato. Io sono iscritto da un po' di tempo. Mi sembrava che dal regolamento, per essere abilitato, dovevi anche scrivere una volta nel post delle presentazioni. Mi sembra. Fatto e non me lo ricordo. Comunque, cioè, non è niente di. Sì, non è uno sforzo immane, dai. Ciao. Considerando il lavoro che fanno, direi che è il minimo. Esatto, esatto. Quindi la traduzione è fatta bene. Certo, ci sono alcuni, chiaramente, essendo amatoriale, alcuni problemucci a volte di grammatica, ma niente di che. Comunque la storia fila liscia. Problemi tecnici ce n'è una valanga. Proprio qualsiasi problema tecnico volete c'è. Questa è forse la parte più brutta, e anche la cosa che io mi chiedo è che magari usare RPG Maker per fare un gioco di questo tipo magari non è il massimo. Innanzitutto io il primo problema che ho avuto è che all'avvio non riuscivo a dire al gioco di caricare una partita dopo che avevo salvato. Ah. Perché mi ero accorto che, non so per quale motivo, il gioco pensava che io continuassi a tenere premuto enter e il menu principale mi faceva in continuazione inizia nuova partita, e non riuscivo a muovermi con le frecce per scegliere carica gioco. Che cosa strana. È una cosa molto strana, infatti alla fine ho iniziato a premere velocissimamente la freccia destra finché non ha selezionato carica, e poi dopo aver caricato mi ha risolto la situazione. Però non lo so da cosa era dovuto. Usando RPG Maker una cosa così non l'ho mai sentita. Proprio per caso è capitata, cioè appariva il menu principale e subito faceva inizio. No, hanno... Cioè, probabilmente sono andati a toccare lo script che riguarda la scena dei titoli, perché quello non puoi modificare da database, di andare proprio a toccare tu, e hanno inserito qualcosa di particolare che va in conflitto. Esatto. No, poi, infatti io all'inizio, appena ho lanciato il gioco, avevo pensato che magari era automatico, nel senso magari non rilevava che c'era una partita salvata, allora era da solo. Invece poi, dopo che avevo salvato, l'ho fatto ripartire, faceva la stessa cosa. Però poi dopo che ho caricato, ho giocato un po' la partita che avevo salvato, dopo si è risolto e funziona bene. Poi c'è un diciamo lag che riguarda i puzzle che bisogna risolvere, perché si clicca sulle tessere da girare finché la tessera non ha fatto tutta la sua azione. Non ti sento più. Lo stiamo vedendo. Lag, scusa, quando si parla dei puzzle lag. Stai laggando anche tu. Ci stiamo perdendo. Io penso saluto. Avevo perso. Salutro sbughi. Aspetta, andiamo a vedere. Adesso. No, ti sento scatti. Adesso? Un un po' ti sento, però piano. Mi sa che i problemi tecnici lo stanno... Ah, eccolo, la sezione puzzle, sì, la vedo adesso. Capisco anche perché lag, sono eventi abbastanza pesanti questi per RPG Maker. Praticamente dobbiamo aspettare che tutte le tessere facciano il loro movimento prima di cliccare su quella dopo. Per cui diciamo che si perde un po' di tempo, niente di particolare, però è abbastanza pesante la cosa. Nel menu principale, cioè nel menu di gioco, sì, dove salvare, caricare e tutto il resto, c'è una sezione che si chiama note. No. Dove ogni tanto nel gioco viene scritto hai raccolto una nota. Sì. Sono andato a vedere nella sezione note, è rimasta vuota per tutto il gioco. Ah. Cioè, non c'era niente dentro. Comunque il gioco, cioè, l'ho finito tranquillamente, niente di che. Probabilmente dopo un dialogo magari ti viene scritto una specie di riepilogo dentro alle note. In caso ti perdi, però boh, non lo so. Quello lì sì, quello è un leggero bug, direi. E poi che altro dire? Allora, la musica è veramente, veramente fatta molto, molto bene. E stranamente, è una musica abbastanza drammatica, stranamente è fatta, se non sbaglio, adesso sto guardando Music By, dalle stesse persone che hanno fatto la musica di Plants vs. Zombie, sì, eccolo qua. Beh, i soldi li avevano. Esatto, della sì, Plants vs. Zombie. E anche Interpol del The Trail of Dr. Chaos, che non so che gioco sia. Ecco, sì, una delle due, una la tipa dei due musicisti. Sì, e le musiche sono davvero, davvero, davvero molto, molto belle. Poi, che altro dire? Diciamo che il gioco è così, ci sono alcune sezioni in cui ci sono una specie di minigiochi, come ad esempio un punto in cui dobbiamo correre a cavallo. E forse quella è la parte più buggata di tutte. Mi sentite ancora? Sì, sì. Ok, no, perché... perché non ti stiamo interrompendo. Oh, no, perché visto che continua ad andare e venire da chissà dove. Forse quella è la sezione più buggata di tutte, perché il cavallo si incastra continuamente sotto agli alberi. Ci sono i cespugli, cioè magari tu passi vicino a un albero, non succede niente, poi c'è un cespuglietto del cavolo e il cavallo si blocca davanti al cespuglio. Un cespuglio. Quello lì è un problema di poco beta testing probabilmente in quella sezione. Ecco, l'ho trovato, c'è lo screen anche di quello. L'ho visto che c'è. E niente, per il resto la storia è veramente il punto forte del gioco, e una volta che si inizia non si riesce a mettere. Ecco, adesso inizio a perderti di nuovo. Lo stiamo perdendo! Sarà che l'ho già perso, però... non ti sento più! Vabbè, diamo noi voto in banale, dai! Mi scrive mi ha scritto A. Sembra felice. Possiamo allora tu scrivi e io parlo per te. Aspetto. Aspetta, come in Abe's Odyssey, per esempio. Aspetta. Vai a fare un giro su Wikipedia. No, Wikipedia ci vanno gli altri. No, Minecraft tu lo guardi da Moby Games. Non c'è scritto niente. C'è scritto tutto quello che devi... ti devi sforzare per l'inglese. Non è così l'inglese. Mentre aspettiamo il turno di gira, facciamo un piccolo incontro, una piccola pausa pubblicitaria. Sono qui, mi sentite? Sì, sentiamo. Sì, vai. Ok. Allora finisco velocemente perché non... almeno non... non succede ancora. Ma cosa stai uppando per... No, io niente, che qua saranno tutti connessi in sta zona e allora... Ciucciano. Sì, la domenica è così. Tutti al tuo router, immagino. Tutti connessi al tuo router. La connessione che è così. Dov'è che ero arrivato? Lo stavo dicendo, non ricordo più. Allora, la corsa dei cavalli buggata, credo. Ah sì, no, vabbè, quello avevo finito. la colonna sonora che è molto bella, e una volta iniziato non si riesce a finire, cioè non si riesce a finire, a lasciare il gioco a metà e andare via, bisogna completarlo fino alla fine. Ha una durata molto molto breve, perché sono 3-4 ore il gioco. Quindi una volta una volta che inizi, segui la storia e finisci abbastanza velocemente. Longevità quanto sarà di ore? L'ho detto adesso, 3-4 ore. Ah, ok. È che stavo paragonando l'altezza del dottore a quella del cavallo, e il cavallo è 3 volte una persona. Sì, vabbè. E quindi non ho sentito l'inizio della frase. Sì, saranno 3-4 ore la longevità. Mm-hmm. Però merita davvero, a parte tutti i difetti tecnici, è un gioco che merita, e appunto come la recensione che mi avevi fatto leggere prima, se non ti piace questo gioco non hai un cuore, perché è veramente, veramente particolare, ecco. È uno a me potrebbe non piacere, visto che sono un Heartless. Esatto. Visto che sono malvagio. Quindi è uno di quei giochi che vanno giocati, almeno secondo me, almeno una volta bisogna giocarlo. Quindi volevo farti una domanda. Quindi il vero protagonista della storia è Johnny, cioè i dottori sono un pretesto praticamente. Esatto, sì, però diciamo che i dottori fanno la loro parte più avanti, in un punto che non si può dire, okay. Perché bisognerà poi, anche loro si intrometteranno un po' troppo nella vita di questo Johnny. Perché così sembra una narrazione tipo quella di Sokal, che alla fine il protagonista che andiamo a interpretare è solo un pretesto per una... cioè non è il vero protagonista. Sì, esatto. Diciamo... è il nostro avatar dentro un'altra storia. Esatto, diciamo che il vero protagonista è sì Johnny, perché noi viviamo la sua vita. Però anche i dottori, diciamo che a un certo punto della storia iniziano a farsi delle domande e a chiedersi se devono veramente fare quello che devono fare oppure se hanno altra scelta. Mm-hmm. Posso dire solo questo. Ok. E ricordiamo che in UK è uscita la versione Retail, che è anche una bella scatola, tra l'altro. Sì, mentre qui la si acquista da Good Old Games, GOG, oppure da Steam. E va a vedere... sì, è uscita la scatola e ha la colonna sonora anche dentro. È pubblicata dalla Lace Mamba Global, LTD. Vabbè. Li conosci? Chissà quanto costa, vado a informarmi. Intanto puoi continuare mentre... No, io ho finito. Voto in banana. Aspetta un attimo. Prepara il... Troppo presto. Non parlare sopra suono, vai. Allora, voto 3 banane. 3. Causa troppi bug. Sì. Ok. No. Dille le tue motivazioni. Troppi bug, sono 3 perché la storia veramente merita. Molti ho visto che hanno dato voti abbastanza alti, però cioè non si può, obiettivamente ci sono veramente tante limitazioni e troppi bug. Secondo me se avessero usato un engine diverso poteva uscire un gioco molto migliore. Sì, senza dubbio il fatto di aver usato RPG Maker mi sa che è più un danno che un guadagno. Esatto. Sì, masochismo va bene. Sì. Mi piace. È come dire, cioè sembra una sfida, riusciamo a fare questo gioco anche con RPG Maker. Sì, sì. Un po' come creare un RPG stile Final Fantasy con GS. Qualcuno dica qualcosa. Io stavo leggendo i prezzi. Non li trovi. $15. No, non sono dollari, sono sterline, scusate. 15 sterline. Allora sono 20 euro. Ok, ma direi che... sei uscito in UK, non sarà il prezzo. Penso che è meglio comprarlo in digital download a sto punto, delivery. Dipende, se vuoi avere la scatola e essere una delle poche persone che l'avrà tra 20 anni... È un investimento, meno male. Sì. Perché questi giochi di nicchia poi diventano delle rarità assurde. Eh sì. ad esempio, avere oggi Orion Burger vuol dire avere un qualcosa che ipoteticamente può valere 200-300 euro. Poi se trovi uno che te li dà, li va. Sì. È quello il problema. Esatto. Cioè, infatti è ipoteticamente vale. Infatti. Ok. Che silenzio. Ok, chi tocca? Tocca a Rikshka, perché io ho fatto il primo l'altra volta. Va bene. Vabbè. Allora, visto che devi parlare di Minecraft... Ops, ho spoilerato. Visto che parli di Minecraft, prima. Ti do il limite di 20 minuti, non puoi sforare. Inizio ora! No, scherzo. Ti apro la pagina delle informazioni. No, che cacchio, sì. Minecraft Classic. Wild Classic o... Sì, sì, sì, apri, apri. Mi servono delle informazioni base. Ma forse c'era Minecraft e basta? No, vabbè, vabbè. Ok. Ha scritto, mi hanno dato un minuto, fate finta che io ci sia. Va bene, giro. Parliamo dal principio che in questa pagina web non c'è scritto una data che sia una. Poi... 2009. Ah, eccola. Sì, per... data ma... Dai! Cos'hai aperto più che altro? Minecraft Classic. Last ma... Aspetta. Dai, ti apro Wikimerda. No, va bene, c'era un altro. No, ti apro Wikimerda, dai. Wikimerda. È un po'. Non date da mangiare ai moderatori di Wikipedia. Ma chi è che li dà da mangiare? è un po'. Sì, andava bene anche l'altra pagina, ok. Stavolta hai vinto te. Mobi Games è meglio di Wikimerda. Non c'è poco da dire. Ok, allora... Minecraft è un gioco che, da quando ho scritto questo, è rilasciato nel 2009. Un gioco, diciamo, considerato nel genere, come genere sandbox, ovvero un gioco senza uno scopo, diciamo, mettiamola così. Tu sei questo personaggio mucchio di pixel che attraverso in un mondo tutto molto cubettato deve, diciamo, ha pieno possibilità di modificare il mondo, di fare un sacco di cose. Simulatore di vita, diciamo che... No, perché un simulatore di vita può essere dei Sims dove tu sei... Però, ok, diciamo che è una vita particolare, però alla fine sì, è la vita del tuo personaggio, dai. Diciamo che poi dipende, allora, prendendo partiamo dal lato tecnico, è un gioco fatto in Java. Quindi è un gioco che può girare praticamente ovunque, in qualsiasi piattaforma. Almeno... sono i limiti tecnici, che è un gioco comunque abbastanza pesante in certi casi. La versione, diciamo, che utilizzata nei PC praticamente consente di giocare in single player, ovvero tu sei il personaggio e hai pieno non giochi, non interagisci con altri giocatori, e praticamente ci sono due modalità: la modalità creativa e la modalità survival. La modalità creativa, tu non hai, non hai, come dire, punti vita, non hai bisogno di mangiare, quindi tu hai praticamente la possibilità di avere infiniti item direttamente dall'inventario. Cioè, tu al posto di un classico inventario hai la possibilità di creare tutti gli item che vuoi, quindi hai la possibilità di dare sfogo alla tua creatività, diciamo. Art Attack. Esattamente, no, non proprio così. Invece la metà survival è... Io se lo vedo Giovanni Mucciaccia che gira. Che gioca no, no, in versione pixelosa che gira. Ah, ok. Con la maglia rossa. È l'artista. Dai, vai, vai. Praticamente invece la metà survival, che è quella che ho giocato più che altro io, che è la metà secondo me più divertente, è prendere tutti i materiali con cui tu creerai tutto, devi farteli da sé. E ovviamente dovrai mangiare, quindi dovrai crearti da mangiare, dovrai sopravvivere ai mostri, di cui parlerò dopo. Praticamente quindi è un pochino più, come dire, un pochino più divertente. Io ho giocato più che altro la versione multiplayer, ovviamente semplicemente è una modalità, puoi scegliere che fare la creativa. Io ho giocato la modalità survival, interagendo con altre persone, quindi possibilità di scambiarsi materiali rari che magari hai trovato, possibilità di spaccare tutto all'altro per vendetta o cose del genere. O per masochismo, salsa. Esatto. Ovviamente giocare in multiplayer in questo gioco ci vuole un come dire, un sapersi comportare. Ovvio che se sei uno che spacca tutto agli altri, rovini semplicemente l'esperienza di gioco agli altri. Quindi non hai nessuna ragione di giocare a Minecraft. Beh, i troll e i team killer esistono. Ci sono, però non hanno ragione di esistere. No, però sono persone frustrate che non hanno niente però. Esattamente. Il gioco ha molti aspetti, può sembrare molto semplice, perché effettivamente è una cosa molto semplice, è una grafica abbastanza infima, diciamo. Infima? Sì, ma infima è quasi un insulto. Infatti non... la puoi anche insultare come grafica. Puoi insultare la pixel art. Vabbè. Verso. Diciamo che se sei un giocatore che guarda molto la grafica, ovviamente Minecraft, cioè, ti sbruciano gli occhi. Però Minecraft è un gioco comunque... che ha molti aspetti, come dire, puoi dare sfogo molto alla tua creatività, puoi fare un sacco di cose, puoi fare circuiti elettronici addirittura attraverso alcuni oggetti. Per farlo qui si sente. Non lo so se sente. Dopo, no, si sente. No, dopo sono troppo forte. Lo so che non lo so. Sì, tranquillo. Quindi dicevi i circuiti elettronici. Esatto, puoi creare un sacco di cose, un sacco di oggettini che ti consente di fare anche cose molto complicate, come so, punti levatoi, ferrovie, perché puoi fare c'è anche chi fa gli ascensori. C'è anche chi fa gli ascensori. Tipo ascensori molto complicati. Sonic. C'è Sonic qui. Vabbè. Quello diciamo che è la parte più elementare. Vabbè. Semplicemente di se vogliamo andare proprio nell'inimmaginabile, c'è uno che su YouTube ha fatto anche una CPU completa. Sì, aveva fatto un ALU, mi ricordo, un processore grafico. Sì, aveva fatto a 8 bit, una CPU a 8 bit. Cioè, così qua, andando avanti può creare Minecraft dentro a Minecraft, praticamente. Sì, no. Ci vuole un po' di tempo, ma sì. Un po' complicato. Però, ok. Già fare una CPU è una cosa abbastanza difficile. Sì, puoi fare tantissime cose. Poi dopo puoi decidere come prendere il gioco. Può essere semplicemente una gioca con i Lego, cioè fai qualche costruzione grafica prendendo semplicemente materiali di colori diversi, facendo tipo sul tizio aveva fatto Sonic. C'è un po' tutto, guarda. Vabbè, se l'hanno fatto anche per stagione da Nintendo, c'è fatto Super sì, Mario. Sì. C'è Mr. T. Oppure puoi fare un sacco di cose. Poi parliamo anche dei mostri. Mostri che diciamo più che altro incidono. Ecco il microfono. Incidono nella parte, come dire, survival. Ci sono diversi tipi di mostri. Sono scritti qui, guarda. Quindi c'è scritto Batman, però. Questi. Mob ostili. Esatto, proprio quelli. Ci sono ragni, scheletri, zombie. Poi c'erano. Scheletri, sì, fantasmi. Esatto, mostri che possono, come dire, lasciare per terra un sacco di oggetti. Poi ci sono anche, mostri, diciamo, cose, cioè animali, tipo galline, pecore, mucche, che si possono anche riprodurre. E da quello lì poi produrre, tipo, so, dalla mucca puoi produrre il latte, dalla pecora puoi produrre la lana, li puoi ammazzare per avere la carne. Per dire. E quindi puoi fare. Anche lì sono altri oggetti che poi puoi combinare anche addirittura. Vedete, tutto si basa soprattutto su una cosa chiamata crafting table. Che praticamente ti consente di combinare tanti oggetti e di creare altri oggetti. Tipo, per farti un esempio, se io prendo un bastoncino, che in realtà si crea combinando due pezzi di legno, per dire. Poi un bastoncino e poi un pezzo di pietra, posso creare una pala che posso utilizzare tipo per raccogliere più velocemente la terra o la sabbia. Ecco, per fare queste cose qua. Cioè, c'è molta creatività, diciamo. Esattamente. E questa è solo la parte iniziale. Poi dopo, mettendo gli oggetti per terra, puoi creare varie cose. Tipo c'è la pietra rossa che insieme alle torce rosse e a alcune cose come le leve, i pulsanti, posso praticamente creare dei circuiti elettronici, facendo passare corrente, diciamo, mentre tu dai l'impulso e fa come conduttore, e poi puoi fare praticamente dei circuiti. Molto interessanti. Non sapevo. Ma ce ne sono tanti qua. C'è uno spirito, esatto, di tornando Bender. Sui mostri, i mostri praticamente e ci sono dei mostri molto odiosi chiamati tipo creeper, che sono i mostri che distruggono anche l'ambiente, quindi devi, ti spawnano addosso e fanno danno a te e spawnano l'ambiente. I danni praticamente, tu hai una vita, quindi sono dei cuoricini, tu quando prendi danni puoi prendere danni alla caduta, puoi prendere danni perché stai nuotando dentro la lava, oppure puoi prendere danni perché hai finito il cibo, cioè hai finito, hai fame diciamo. La fame praticamente devi compensarla creando del cibo che puoi mangiare ed eccetera, diciamo, sono un sacco di cose che si possono vedere solo giocando. Diciamo che in internet sul crafting ci sono delle guide lunghissime dove esatto, puoi vedere tutti i possibili oggetti che puoi costruire. Esatto. Il gioco diciamo che può essere divertente, solo che dopo un po', almeno la mia parte personale, dopo un po' annoia, diciamo. È frustrante. Non è, esatto. Dipende come giochi, perché se lo giochi in creative non può essere frustrante. No, è un mega editor. Quando lo giochi come lo giocavo io in survival può essere anche molto frustrante, perché quando hai perso 2 ore a scavare per prendere, che so, dei minerali, poi magari muori dentro la lava e perdi tutto, è molto frustrante. Sì. Il gioco è a pagamento, non mi ricordo quanto costa. Andiamo a vedere. Vai, come presidente. Diciamo che però il gioco è a pagamento. Cioè, il gioco non è a pagamento, è l'account che è a pagamento. Sì, esatto, per giocare in multiplayer. Perché volendo il gioco in sé non è a pagamento. Ma... nel senso che rimanendo nella legalità, tu puoi giocare nei server esterni che non sono di. Sicuro che siano legali, questo non ne sono completamente sicuro. No, sì, perché poi c'è anche il Minecraft server, che è la versione server di Minecraft, che è scaricabile gratuitamente dal loro sito. No, allora, no, non funziona proprio così. Allora, cioè, tu è vero, puoi scaricare il Minecraft server, però teoricamente per poterlo usare, connetterci, dovresti avere il client che dovresti aver comprato, ecco, questa è la cosa. Beh, che poi sia facilmente reperibile ovunque è un altro discorso. No, guarda che, almeno che io sapevo, quando tu scarichi anche il client dal loro sito, lui ti chiede lo username e login. Se tu non gli metti niente, lui ti fa giocare in LAN comunque. Wow, eccolo qua. Quindi volendo... uno può fare il server e tu puoi giocare, cioè gli altri giocano. Sì, diciamo che sei proprio ai limiti, proprio sul filo, però. Non lo so, infatti bisognerebbe informarci se è legale o no. Costa 20 euro oppure 26,95 dollari. Sì, penso sia questi qui in realtà sono i dollari australiani, però. No, quelli sono i dollari americani. No, USD sono quelli australiani. No, AUSD sono quelli. Sì, AUSD sono gli australiani. Vuol dire United States dollari. Ok, quindi... 27 dollari più o meno, e da noi 20 euro. Sì, che è il cambio anche giusto, perché sono forse sono gli unici che gli sfigati che fanno cambio giusto. Oh. Perché la maggior parte di gente che vende su internet cerca di venderti una cosa a 20 dollari a 20 euro. Chissà perché è il cambio da negozio italiano, eh. No, sì. Ma con certi negozi, cioè tu magari vai, c'è la pagina italiana e la pagina americana, per dire, tu cambi dallo stesso sito, dalla pagina americana italiana alla pagina americana, e noti che il prezzo rimane sempre uguale, 20-20, non ha senso. Guarda, ad esempio vendono la felpa del creeper, che se tu ti metti il cappuccio e la chiudi con la cerniera sei un creeper, è un costume. E vai in giro ad esplodere. Sì, sì, sì. Sei fatto di pixel. Diciamo che i mostri, siccome hanno la cosa nel nascere di notte, perché c'è il giorno e la notte, e hanno la cosa di nascere a uno degli spazi bui. Quando tipo sono 2 settimane che giochi a Minecraft, tu quando esci di casa inizi a guardare intorno, perché dici, oddio, mi potrebbe comparire uno zombie o un creeper dietro. Minecraft è il tipico colpo di culo, cioè il gioco che ha avuto 500 volte il successo che doveva avere praticamente. No, non che sia immeritato, che non se l'aspettava nessuno. Esatto, esatto. Nemmeno il creatore. Cioè, se dovevi vedere, le Lego di Minecraft esistono. C'è qualsiasi gadget sui creeper, addirittura c'è qualsiasi cosa. Ma forse perché appunto non è... Ha avuto un gran successo. Sì, ma forse perché non è difficile, cioè non è che devi stare a guardare se il mio computer lo fa andare o no, se questo è supportato o no, cioè tu prendi, giochi e vai, cioè alla fine tutti possono giocarci. Su Java ovviamente, sul cellulare fa un po' fatica ad andare, però sul cellulare è uscito Minecraft Pocket, Che è praticamente ce l'ho io. Strata di Minecraft. Sì, ce l'ho anch'io, non puoi fare nulla. Cagare, esatto. Io non l'ho neanche comprato. Praticamente c'ha le... Neanche scaricato, eh? Le due caratteristiche che servono per arrivare a questo punto. L'innovazione che... Cioè, può essere vista come cose prese da altri giochi messe tutte assieme, ma volendo innovazione, diciamo. Sì. Libertà di gioco, diciamo. Sì, e la capacità di personalizzare il mondo. Esatto. Che è, cioè, alla fine con queste due cose è un successo sicuro. Esatto, perché il mondo praticamente è infinito. Tu man mano che vai verso un lato, per dire, il mondo sarà automaticamente creato. Quindi tu, e il mondo può essere completamente modificato, tu puoi raccogliere l'acqua, puoi tappare fiumi, creare fiumi, perché l'acqua, se tu crei una pozza di più di, mi pare, 3 cubi, diventa una sorgente. Quindi tu puoi anche creare un fiume volendo, se vuoi personalizzartelo. Sì, diciamo che queste caratteristiche forse si apprezzano di più se giochi in modalità creativa. Sì. Diciamo che dipende, cioè se sei uno che vuole provare a giocare, tipo, che so... Sono due tipi di... Siccome esistono i server apposta, ci sono due tipi di server. I server che vogliono giocare in survival, cioè ognuno si deve procurare la roba. Esatto, sì. Comunque mi sembra anche un pochino più divertente alla fine, perché da devi sudare un po' la cosa, non è solo... Sì, oppure ci sono quelli in creativa che invece... Creativa dove tu hai tutto e tutto, cioè hai tutto e puoi creare quello che ti pare. Oppure ci sono i server come quello che ci eravamo fatti noi da soli, dove iniziavamo giocando in creativa... Giusto per costruire mezzo mondo e poi venivamo tutti cambiati in survivor. No, noi avevamo praticamente... Al momento, praticamente. Avevamo uno che praticamente aveva creato, stava creando, poi quando si è giocato non aveva neanche ancora finita, una super ferrovia che collegava tutti, diciamo, mentre noi ce l'avevamo creato il nostro punto, che prima è nato come una specie di grotta scavata nella roccia. Per sopravvivere alla notte. Siete nati da una buca. Esatto, e poi è diventata una cava per procurarsi i materiali. E poi si è esteso in un intero, come dire, cosa, ovviamente è diventato un'intera, aveva anche una fattoria. E di fianco c'era tipo il castello. Diciamo che si era un po' evoluta questa cosa. Diciamo che può simulare. E ognuno aveva fatto una cosa simile. Cosa succede? Succede se un uomo moderno rimane da solo nel mondo, ha i mezzi per fare qualsiasi cosa, deve solo deve applicarli. Esatto, un po' come. Esatto. E è successo un po' come se, che so, come succedeva una volta, cioè. Una volta, 3000 anni fa, per dire, finivi in un punto dove c'era un fiume e dicevi c'ho l'acqua, okay. C'ho una foresta, c'ho il legno, posso curare questo zombie. Sai che forse però non penso che se ti ritrovi solo nella foresta e accatasti tre da pezzi solo di no, legno, esce fuori un bastone. Sì, vabbè. Oppure di notte escono dei cosi verdi che urlano e esplodono. Esatto. E poi non è che se picchia mani nude un pezzo di terra esce fuori un cubo di terra, però vabbè, non è questa la cosa, però l'esagerazione è così. Diciamo che aveva creato questa ferrovia per collegare tutti questi centri, diciamo, abitati. E questa l'ha fatta in modalità creativa, quindi faceva qualcosa in modalità creativa, però alla fine tutto ciò che c'era era quasi tutto fatto, diciamo, sudato, anche proprio i materiali. Questo comportava anche, tipo, per fare degli esperimenti, comportava farli prima da solo in single player in modalità creativa e poi quando avevi i materiali te lo facevi in modalità nel server, diciamo. Buono, io direi che ho finito qua. 20 minuti sono passati, no? Sì. Hai tenuto il tempo? Ma a livello di musica come è messo Minecraft? Credo male. Perché abbastanza male. Questo genere di giochi se ne fregano di solito. Però. La musica è praticamente... io l'ho trovata abbastanza noiosa. Cioè, abbastanza noiosa. Non la volevo la musica. Stava veramente molto... sulle palle, quindi l'ho disattivato. Anch'io, infatti. Non lo faccio sempre, tipo in alcuni giochi non la disattivo. Capite che non la disattivo? Vuol dire che è una musica che mi ha, diciamo, mi accompagna nel gioco, mi piace. C'è anche da dire che per un genere di gioco così, trovare un genere musicale che ci stia è dura. Cosa fai della musica ambientale, tipo Enya, cioè? Sì, esatto. È proprio giusto quello. Vediamo chi l'ha composta la musica. Music. Daniel Rosenfield, che ha anche i suoni. Ha fatto Minecraft, un gioco chiamato K2 musica. Mojang AB è Mojang è Software House che sviluppa Minecraft. Ecco, K2 è un giochino. Nel Roser Whiff quanti voti banane gli dai? Non lo conosco. Non lo apprezzo e non lo conosco. Ok, invece parliamo dei voti che darei a Minecraft. Io a Minecraft darei 3 banane, diciamo. Perché non è un gioco sorprendentemente divertente, diciamo, perché comunque la lunga annoia. Però è un gioco che mi è comunque. Ma comunque divertito, ma è. Scusa, È un gioco che comunque vale la pena provarlo. E per passare il tempo anche con gli amici, per dire. Giocare single player con un po' tale no. Invece quando ne parli con quando ne giochi con qualcuno, collabori anche con qualcuno. Tipo, io avevo fatto la mia, come dire, fattoria castello, tutto quanto era fatto in cooperazione con altra gente ed era divertente così. Ho due domande. Lag o anche un computer non cioè va solo di computer? Guarda, perché funziona anche sul netbook volendo. Se lo fai girare. È un netbook, ti parlo di un giga di RAM e un processore Atom molto. E l'altra domanda è: secondo te 20 euro sono tanti o van bene per un gioco così? Sono tanti, secondo me. Secondo me ci starebbero 10 euro. 15 euro, dai, andando a. Però comunque non dico che 20 euro siano proprio buttati, ecco. No. Ne può valere anche la pena. Cioè, il team che ha fatto Minecraft si meritano tutti di avere il loro castello fatto in blocchi, nella realtà. Esatto, dico che comunque, cioè, per 20 euro potresti anche fare la spesa, ecco. Alla fine 20 euro non sono tantissimi, confronto ai giochi che sono. Magari provare la demo e se vedi che ti piace un gioco che ti può tenere tanto. Quello, esatto, ti dura. Ovviamente spendere 20 euro per un gioco che alla seca e poi lo butti via non ne vale la pena. Però se ci giochi veramente tanto, a questo punto paga, cioè comprano a questo punto. Alla fine fai anche un favore a chi l'ha fatto. Vabbè, ci credo, in realtà non è un favore in realtà. In realtà fai quello che bisognerebbe fare. Esatto. Però tipo se privi 20 euro una software house famosissima, magari non se ne accorgo neanche. Se sì, è una software house che ha avuto un gran successo come da Motion, ma che però ancora non è a livelli altissimi, comunque è vero con quello che paga. Beh, considera che agli European Games Award il creatore di Minecraft ha vinto il premio personalità europea battendo l'inventore della saga di Ultima, Coso c'era, Moulinot c'era, cioè dei signori che ci sono da 20 anni e passa. Però infatti ha avuto un gran successo. Pure Garriott ha battuto, pensa a te. Chi? Ha battuto anche Garriott, l'inventore di Ultima. Sì, lì c'era Garriott. Lì era scritto Sir però prima. Beh, Sir Richard Garriott. Mario Punk non era in personalità europea, ancora non sono eleggibile per me. Vabbè. Io ero in altra categoria, niente a che fare con Minecraft. Boh, diciamo che io ho finito. Prego. A lei, signore. Allora, sì, Eric, si aprono le acque per chi mi trova in mezzo a due individui di malafede. Malaffare. Non è perché sotto portafogli in mano che deve essere. No, è perché l'hai maneggiato. In mano è. Cos'è quella cosa? L'hai maneggiato più volte. È un orologio. Che ha preso dal mio portafoglio. Non è vero. Allora, Swatch. E sei sempre in pista, ecco, questa se la paga. Ecco, almeno questa volta io non tiro fuori il sottotitolo del NES, che in realtà non ho mai tirato ho fuori il NES. Ho trovato il vero portafoglio. Ma neanche. Dai. Posto. I titoli dello SNES. Ci sono ancora degli SNES? Perché, no, non sono più SNES. Perché per 3 volte di fila ho parlato di Super Nintendo e per una volta ho fatto un'incessione con Nintendo 64 con un spiacevole gioco chiamato. Che spiacevole? Vabbè, dai, un giochetto. Sì, vabbè. Che non mi ricordo. Che gioco Pokémon Snap. Era spiacevole, ma non si ricorda che gioco era. Esatto. Se un gioco è spiacevole, hai la memoria corta. Allora, vedersi qualsiasi cosa, Made in Telltale Games, vai. Ecco, quindi parlo di un gioco di cui è una console nuova. Perché io, tipo, ho aperto un cassetto. Cos'è la Wii U? E ho trovato questa console bellissima, ecco. Io l'ho attaccato ovviamente di fianco al mio 64 NES Super Nintendo, se l'abbiamo di là infatti, e dentro conteneva un gioco, allora io l'ho soprannominata Nintendo Station 1. Ah. Ecco, il gioco al suo interno si chiama Medieval, che è un bellissimo gioco degli anni 90-80, almeno io dico che è degli anni 80-90. E adesso perché diciamo, era Nintendo Station 1. Diciamo realmente... No. È del 98. È del 2... No, il 2002. Dove cacchio è il primo 2002. Medio? 2002. No, sì, è del 98. Anche... Del 98. Hai visto? Anni 90. Quello della console che dici tu. Poi dopo 90. C'è stato anche per PSP e PlayStation 3. Sì, per Nintendo SP. Che sì. È Medieval Resurrection. E Nintendo Station 3, va bene? Sì, va bene. Nintendo Station? Va. Allora... Medieval è un gioco fenomenale, dato che la storia è molto divertente, iniziamo subito da quella. Nell'anno 1286, Sir Daniel Fortescue, capitano della forza militare di Gallumir, una antica regione medievale, diciamo. Romania fantasy. Vabbè, Romania fantasy. Aveva il compito di fermare le... forze malefiche dello stregone Zaruk, uno stregone che viveva nella torre vicino al villaggio di Gallumir. Lo stregone, con le sue orde di zombie e demoni, era intenzionato a conquistare la città di Gallumir. Quindi Sir Daniel, insieme ai suoi baldi compari, prese su spada e scudo e partì per la missione. Il problema cruciale fu proprio che all'inizio della battaglia la prima freccia scoccata dall'arciere di Zaruk colpì l'occhio di Sir Daniel e lo uccise sul colpo. Quindi il nostro protagonista è molto sfigurato e... Che grande capitano. Sì, è molto onorevole. Insomma, è morto per primo. Però la guerra l'hanno vinta, No, non mica grazie a lui, lui è morto subito. Ma questo è il punto cruciale della storia. Perché? Perché in un futuro, qualche... Secolo dopo, lo stregone Zaruk si risveglia, non è morto, è stato solo sconfitto. E tirando fuori il suo libro di incantesimi scopre una magia nuova che serve a praticamente resuscitare gli zombie del cimitero di Gallumir, e oltre a questo incanta anche i cittadini del paese stregandoli, cioè, diciamo rendendoli schiavi a suo servizio. Il punto però è che resuscitando gli zombie risuscita anche Sir Daniel, perché lui è nel cimitero comune, non nella sala degli eroi, visto che è morto come un poveraccio. Sì, però se mi fai spiegare cos'è la sala degli eroi senza interrompere. Vado via. Se ne vadi. Vado nella... Nella cripta. Nella panic room. Ecco. Al contrario dei suoi compagni, Sir Daniel è rimasto nel cimitero comune. E il suo spirito quindi non è andato nella famosa sala degli eroi. Qui se ne stanno andando tutti. Vabbè. Hanno colpito un gatto. Ecco. La sala degli eroi sarebbe più o meno l'Olimpo per l'Olimpo degli dei, insomma, gli eroi che sono riusciti a fare un'impresa eroica nella loro vita prima di morire, si finiscono, brindano e si picchiano tutto il tempo. Mentre Sir Daniel, che è morto in modo poco onorevole, è rimasto nel cimitero. Per cui lui resuscita e quindi adesso ha l'occasione di rifarsi, sconfiggendo Zaruk e guadagnandosi un posto nella sala degli eroi. Il problema è che lui dal cimitero deve trovare Zaruk, che è nella torre lontanissima, e quindi farsi tutto il percorso che c'è intorno a Gallumir, cioè grotte, mausolei, cimiteri, passando anche per il villaggio con la gente stregata dove non potete colpirla perché sono persone, cioè, quindi non puoi uccidere, cioè, sarebbe una cosa disonorevole, diciamo. Il povero Sir Daniel ha finalmente l'occasione di farsi valere. Questa è la trama. Il gioco è un classico platform con vari bonus, diciamo. Ogni livello c'è un calice, una specie di Santo Graal, che per prenderlo dovete prima trovarlo e poi materializzarlo, nel senso che nei livelli ci sono un tot di mostri. Quando voi uccidete un mostro, il mostro rilascia la sua anima, che va nel calice. Quindi dovete riempire al 100% il calice per prenderlo nel livello. Prendere i calici vi servirà quando alla fine di ogni livello andrete nella sala degli eroi, per guadagnare nuove armi, perché con quei calici Sir Daniel potrà conferire quei suoi vecchi compagni che sono nella sala degli eroi. E loro in cambio vi daranno le loro armi leggendarie che gli sono servite durante la guerra con Zaruk. Quindi da qui Daniel, partendo tirando il suo braccio sinistro, potrà avere armi più, diciamo, utili. Più efficaci. Poiché all'inizio hai solo il braccio e la spada. Ah, ok, tu lanci il braccio. Sì, fa... E lo vai a prendere o fuori indietro? Torna indietro, torno, ovviamente. Dai, è un braccio. E quindi C'è un... Le braccia ritornano. Sì, sì, aspetta che ci provo. Scusa, tutti gli scheletri sanno tirare il braccio e farlo ritornare indietro. Beh, gli scheletri di Castelvania avevano ossa infinite da lanciarti, quindi... Sai quante sono le costole in uno scheletro? Le costole no, però di ossa ne ha più di 100 sicuro. Io ricordo, che ne so io. Vabbè. Non vado a scuola da anni. E dovresti farlo. Comunque, quindi le armi sono su una, diciamo più o meno una ventina. Diciamo che per livello, con un calice si guadagna una nuova arma. O comunque armi potenziate, nel senso che ci sono armi a distanza che magari all'inizio sono, ne avete solo una e dopo ne danno una più forte. Qualcuno però ti dà una fiala della vita, mi sembra, per il calice. Ecco, ci sono anche le fiale della vita, cioè quando la vostra barra della vita finisce, se voi avete queste fiale, recuperate tutta la barra. Quindi potete avere un tot di fiale che vi fanno risuscitare. E possono essere ricaricate se nei livelli trovate delle fonti di vita, che sono delle fonti verdi che se si ridagna il centro fa esatto. Vapori di sprite sono verdi. Sì, vabbè, sono quello che sento uno scheletro quando va su un vapore di sprite. Ecco, una cosa molto bella del gioco è che ci sono una miriade di livelli, ci sono parecchi bivi che però... Una miriade, sì. Parecchi bivi che però comunque dovrete intraprendere entrambi, perché per entrare in certi livelli vi serve per esempio una chiave che è nell'altro livello, quindi è tutto un gira-gira. Gira 93 gira. Gira io. Esatto. E ci sono dei mostri molto particolari, ecco, questo è un aspetto importante perché se lo giocate all'età di 10 anni rimanete scandalizzati. Abbastanza. Io l'ho visto giocare a 10 anni e mi ha fatto paura. Sa che avevi anche meno quando giocavo. Oh, 8 anni, dai. Insomma, nel senso che tu entri in sto cimitero, sono tutti zombie. Iper... Arrapati, sì. Molto terrificanti, per tutti i due sensi. Cioè, perché sono arrapati, perché sono zombie. Ah, diciamo che sembrano in preda, non so, a deliri di acido, non lo so. Sì, in un certo modo sono fatti bene, però sono terrificanti. Si muovono come se fosse una crisi epilettica. Sì, però. Nel senso che comunque se sei piccolino ti fanno paura. Dai. Ok, quello sì. Ah, peggio dopo, peggio. La città è più paurosa. Sì, vabbè, lì sono i cittadini indemoniati, sono molto più cattivi. Tipo la bambina che fa la la la la la con l'ascia. Infatti la versione PSP è stata tanto tanto alleggerita, è molto più scherzosa la versione PSP. La versione PSP stiamo leggendo proprio adesso. Nintendo Portable, scusa. Esatto, la versione della Nintendo Portable che l'ho finita, mentre quella PS1 l'ha finita Wario Punk. Io non l'ho giocata. Vabbè. Qual è chi l'ha finita? Con i trucchi di GTA l'ha finita. Qual è la migliore tra le due? Nintendo Station 1 sicuro. NS1. Quella della PSP è zeppa solo di cavolate, no, per della bambini. Nintendo SP. Scusa, della Nintendo Portable è piena solo di buonismo. Nintendo Station. Ma basta. Non ce la faccio a ricordare tutti questi nomi inventati. Inoltre qui non so perché, ma mi dice anche che si fa per PlayStation 3. La puoi scaricare dal PlayStation, cioè dal Nintendo da Nintendo Store. Dal Nintendo Store per la NS3. Sì, perché esiste anche un altro Nintendo Store. Quello sì. Esiste. E anche su Android, tra l'altro, c'è Medieval 1. Ah. Sì, è strano che non sia una console della Nintendo. Beh, Nintendo Android. Nintendoid. Ecco, allora, abbiamo parlato della storia, abbiamo parlato di particolarità del gameplay, ma non completamente. Quindi finiamo di parlare del gameplay. Allora, il gioco, come ogni platform ben si voglia, ha anche un tot di boss. I boss sono molto divertenti perché in un certo modo hanno una strategia di... cioè, c'è una strategia per batterli, diciamo. Ovviamente il primo è molto semplice da capire come ucciderlo, il primo boss. Dopo diventano un po' più ostici, perché a volte potrete anche incappare in boss molto potenti o in livelli a tempo, che sono molto, molto, molto fastidiosi. Qui c'è una curiosità. Dalla versione questa di cui stai parlando, sono stati tolti due livelli progettati originalmente che sono nella versione PSP, tra l'altro, quelli del drago. No, c'è quello dei pirati. Qui c'è, vabbè, qui si chiama Dragon Chase Live e Train Ride Live. No, sono livelli diversi, mi sa, addirittura. Ah, è vero, il treno non sapevo esistesse. E in più qui c'è scritto che nella versione originale Medieval aveva meno armi e non aveva lo scudo. E le bottiglie, scudi, sai più di uno. Sì. E le bottiglie della vita, invece di avere la barra della vita, avevi i token come... Ah, dai, vecchi platform. Come vecchi platform, sì. Come Castlevania. Ecco, anche un'altra cosa. Possiamo dire che ci sono una specie di mini enigmi nei livelli, nel senso che con alcune armi... Ecco, scusate, rettifico, Castlevania è la barra della vita. Rettifico già. Già. Chi è che ha i token? I biscotti? Qualcosa biscotti? Vai, sì, vai. C'è là quello di Ape Escape. Ape Escape, bravo. Non andiamo a parlare di scimmie. Sai i crostini dorati. Basta. Ape Escape 1 sai i crostini dorati. Mettila. E sono, hanno le scaglie di cioccolato, non sono crostini dorati. Nell'uno sai crostini dorati. Se tu prendi quella con le scaglie di cioccolato, ti cura sì. Di 5. Vabbè, vai, basta. Allora. Buoni crostini dorati. Basta. Ovviamente Sir Daniel, essendo uno scheletro che non ha la mascella, poi non sa parlare, quindi mugugna quando parla. E questo è anche un fattore molto divertente, nonostante lui viva in un mondo molto macabro. Ma più che altro gli altri capiscono cosa dice. Vabbè, lui è il loro capitano, ne sa di eroe, lui parla con i suoi vecchi compagni, è ovvio che capiscono, scusa. Sì, come dicevamo prima, nella versione portatile Nintendo c'ha uno sghiglio. Nel suo teschio vive una specie di demonietto che... Ma è una pulce, è un insetto. Sì. Però non mi ricordo come si chiama. Che praticamente vi funge da tutorial e si rende più facile anche il gioco, vi dà un sacco di consigli. E scherza con Daniel durante i livelli e le crescenti. Sì. Ecco, allora... Il gameplay, abbiamo parlato dei boss, buon. Qualche puzzle c'è in giro, qualcosa. Ecco sì, dicevo. Durante i livelli, alcune armi mi possono servire per aprire nuove vie, diciamo. Che non sono cose obbligatorie a volte. Per esempio c'è la clava che spacca certi muri. O la potete usare dandogli fuoco come torcia, per accendere certi interruttori. Oppure ci sono alcune mini missioni che vi possono portare a dei livelli segreti. Per esempio... Durante il gioco potete incontrare delle streghe con i loro calderoni e se gli portate un certo oggetto vi possono aiutare in qualche modo nella storia o sbloccarvi nuovi livelli, che sono anche molto divertenti, perché comunque il mondo di Sir Daniel diciamo che è molto particolare. Se è un po' come quelli di Nightmare Before Christmas, è dark, però è dark abbastanza scherzoso. Se ci sono anche le zucche giganti, quindi Che rotano. Ok, abbiamo parlato di gameplay, abbiamo parlato di storia, musiche. Le musiche sono macabre, macabre da far paura. È per questo che quando tu sei un bambinetto che vedi lì queste musiche qui, ti fa più paura. Beh, io ricordo che da piccolino avevo, sai che con la Nintendo Station 1 sì. davano anche i dischi delle demo. Sì. E dentro in uno di quelli c'era Medieval, la demo. Ma io arrivavo quando esci dalla cripta e basta, poi spegnevo, non riuscivo ad andare avanti. C'era anche il mitico Kula World nella demo. Sì, è vero, è quello che scandalizzava i bambini. Ricordiamo Kula World, mi raccomando. Sì, sì. È quello, il disco è quello, allora. Brutti ricordi, culo. Anche perché ha un nome. Ma secondo voi qualcuno l'ha mai comprato la versione? Ma io specificherei normale. Che cool è COOL, non è cool award. No, no, ma quel gioco è scritto KULA. Kula, Kula. C'è una palla da spiaggia che risolve dei labirinti sì. Volanti alla. Babbo. Ok, quindi anche questo scandalizza i bambini. Ecco, il problema del povero Sir Daniel è che a parte il remake Resurrection, gli hanno fatto solo un 2, nella un sequel nella Nintendo Station 1. Il sequel non è brutto, cioè io l'ho visto giocare da quello che ho di fianco qui, vabbè. Riccardo. Sì, esatto. Il problema è che è un po' più ostico dell'uno, anche l'uno comunque era molto difficile, infatti sai chi ha usato la soluzione o trucchi per finirlo? Un livello. Due livelli, boss uno. Finale. Ah, vabbè. Ah, era troppo forte. Perché sono tre boss di fila, vabbè. Sì, dopo al 2 invece, cosa ha fatto Sir Daniel? È andato a giocare a golf. Dopo c'è solo un gioco dove lui gioca a golf. In uno spin-off, cioè praticamente il suo studio di sviluppo, quelli che hanno i diritti suoi, hanno fatto un gioco di golf e l'hanno messo come personaggio segreto. Ah. Quindi quel gioco di golf potete usare persino lui per dare due tiri alla palla. Sì. Ammazza che mappa. Volevo specificare che anche Murray voleva riprendersi il suo braccio, ma... Sì, vabbè, qui stiamo... Ah, è vero. Quindi vedi che le braccia non ritornano sempre esatto. Indietro. Beh, e lì c'era l'acqua di mezzo. Ma anche quando ti metto su dell'acqua. No, aspetta, il braccio c'era coso, c'era Guybrush. Cade. Vedi. Riunire Marri al suo braccio è una pessima idea. Ecco, se provate a farlo, Guybrush disse questo. È vero? È vero, io mi ricordo a memoria il frase. Per cui, con la musica del buon vecchio Godot, siamo arrivati a parlare di musica. Ripeto sempre le stesse cavolate, perché non mi ricordo che... Cioè, voi non fate domande, non so quali aspetti ho evitato del gioco. È un gioco? Tutto. No, non è vero. Beh, innanzitutto hai detto che è una console inesistente. No, tu non sai nulla e quindi devi solo stare zitto. Va bene. Qui c'è scritto Android, PlayStation, PlayStation 3 e PSP. Forse perché sei secco. No. Nessuna domanda a parte questi commenti irrilevanti? No. Vediamo cos'altro ha fatto la Shea Studio. Sì, va, no, io non devo dire niente. Sono gli stessi che hanno fatto il gioco di Hercules. Ah, sì, carino, anche se è un po' corto. Per cui direi che siamo arrivati. Ah, no, non è quel gioco di Hercules. Vabbè, basta, è un gioco dell'Amiga. Vabbè, basta, ci sta. Siamo arrivati al dunque, quindi. Beh, considerando l'atmosfera, il gameplay, tutte quelle sorte di livelli molto particolari che comunque tra di loro sono molto diversi e hanno nemici particolari, ecco, giusto i nemici magari volevo riprendere. In diversi livelli ci sono nemici che hanno funzioni divertenti, per esempio nel mausoleo ci sono dei piccoli, diciamo... Sminchi, che vi rubano le armi. E quindi se voi non li uccidete andate a riprendere, l'arma non l'avete più. Ah. Per quel livello, ovviamente. Sì, vabbè, però sono fastidioso. Sì, considerando che quel livello ha anche un boss, sì. Sì, dai, diciamo che siamo arrivati al dunque. Per cui Medieval gli diamo 4 banane, perché è della Nintendo Station 1 prima di tutto. Perché ha avuto un remake soddisfacente e perché è un bravo giocatore di golf. Mi piace il suo swing, no, lo swing è nel baseball. Mi piace, no, è anche quello, sì, i suoi tiri con la larga sandwich. La sandwich, la massa, sandwich, non sandwich. La massa che sandwich. La sabbia. La sandwich come una larga sandwich. Io consiglierei un putter. Ok. Bene, Mario Pike si è fregato il microfono. Ah, vai, devo, vabbè, tutti lo tengo qua in mezzo, così siete il rumore della sedia. Allora, direi che siamo arrivati verso la fine. Sì, c'è un boss. L'avventura freeware, niente. Ah, l'avventura è freeware. Il freeware. Ma questo è un boss. Hard Acrobat quando sei sulle montagne russe. Non me lo ricordo. Ah, sì. Il freeware. Ecco, parliamo di un game maker che volevo invitare ad Ask the Maker, ma purtroppo ha impegni riguardanti l'università. Quindi possiamo permetterci di parlare dei suoi lavori qui. In questa piccola rubrica, ovvero Black, si scrive Black, però suppongo si pronunci Black, e la trilogia di Umbrea, ovvero una trilogia di giochi sviluppati con Game Maker che ricalcano i vecchi giochi di Super Mario e Wario del Game Boy prima del Color. Infatti sono fatti appositamente in quel bianco e nero, quel bianco che tende al verdognolo. Sì. La trilogia di Umbrea è veramente, come dire? Veramente. È veramente, cioè è completa da, in ogni punto di vista, e soprattutto il fatto che sono tre giochi diversi dà veramente l'impressione dei vecchi sequel, perché in ognuno vengono portate delle innovazioni. Nel primo il protagonista, ad esempio, può uccidere i nemici solo saltando e ha un colpo. Dal 2 c'è la barra di vita e le armi, tipo il boomerang. No. Nell'1 tu spari, nel 2 puoi correre in più, però sai sempre sparare. Alcuni nemici li uccidi saltando in testa, i boss li devi sparare. E andando avanti così, la saga, cioè diciamo il concept del gioco diventa sempre più vario, come Vario. Vario. Come la trilogia di Mario, no di Mario, erano due, vabbè, chiamiamo la trilogia di Mario. Allora fai quella di Vario che sono 4. No, del Game Boy, non prima del Color, la trilogia di Mario dove il terzo è Wario Land però. Sì. Esatto, ecco, possiamo come similitudine dargli questa. Umbrea su Google si trova molto facilmente, se no potete trovarli su Frank Expo, i link già nelle schede dei giochi. E cosa avranno in longevità? Un'oretta ciascuno, però nel 2 e nel 3 c'è già qualcosa di segreto, mi sembra. No, allora, qui ti correggo subito io. Vai. Il 2 ha delle innovazioni tecniche del personaggio, però per il resto è uguale all'1, nel senso che presenta 4 mondi, però ha una funzione in più. Se tu finisci il gioco, ti sblocca la modalità che hai 1 di vita. E il boss è già difficile prima, quindi boss finale. Perché a differenza dell'1, che avevi un colpo di vita, nel 2 hai la barra. Mentre nel 3 è finito il gioco, ci sono le 3 torri segrete, no? Sì, no, nel senso, quando tu batti il boss finale fasullo, sì, è un classico. Tu devi tornare indietro nei vecchi mondi a trovare queste 3 torri nascoste, sconfiggere i 3 boss segreti e dopo andare al vero finale del gioco. È il classico dei platform, cioè quando finisci ti dicono ma in realtà non è finita. Ecco. E comunque, niente, la trilogia di Umbrella è sicuramente un vanto per il game making italiano e soprattutto sono dei buoni platform che meritano di essere scaricati e giocati. Bene. Allora, se volete contattarci per qualsiasi cosa che non siano insulti, perché nel caso siano insulti vi sguinzaglieremo contro il nostro demone personale Sminchio, potete contattarci o attraverso il canale o i video di YouTube con i commenti o alla mail vera non fittizia pancomando77@yahoo.it. non lo dico più lento di così. Ma scoprirete che contatterete solo lui e noi non ne sentiamo niente. No. Io le cose ve le dico prima di registrare, sì. Anche se questo qua ci convivo, ma vabbè, con Riccardo ovviamente. Sì. E col produttore esecutivo. Soprattutto se siete game maker che vogliono partecipare ad Ask the Maker. Oppure se volete che, ad esempio, che qualcuno di noi in particolare recensisca un gioco, tipo se vi piace come recensisce normalmente Riccardo e quindi volete fare recensire a Riccardo un gioco, che so, tipo Contra. Contra, che tu conosci benissimo. Ok, questa è una faccia impagabile. O se ad esempio volete consigli tecnici su come smontare e rimontare i computer da gira, va. Ora, Amoroso va messo. Sì, è tipo 24, c'è cioè la musica di 24 in sottofondo. Ok, dai. Salutiamo. Allora, cassa. No, al finale la musica era 9. Ah, ok. Scarde Pan, no, io sono l'ultimo, non no, chiudere. Tu sei... Io sono e l'ultimo. Allora presenta prima Rick Ska e Zero. Io sono sempre il penultimo. Vabbè, io mi saluto. Vabbè, Rick Ska quarto, 4.0, scusa. Ciao. No, in codice binario. Aspetta, vai su. No. non ha studiato, è 010001. Adesso faccio le conversioni numeriche. Dai. Sì, sì. Vai, Marco Girardi. Ciao a tutti. Manca qualcosa. Grandissimi. Ok. Scarde Punky. Signori, ripescate la vostra Nintendo Station 1. E Vario Punk, best in the world, ripescate. Vi saluta. Buia.